Se 8 miliardi di anni corrispondono a 24 ore, a che ora del giorno sarebbe nato il vostro regno, che è comparso 3 miliardi di anni fa?